Ma io ce l'ho fatta prima di lui, ma l'ha capito. Silenzio la vecchia. Si apre. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Rischi e cannarine, un bello gelatino, tu però non vuoi cuppetto, né un spumone, né un sorbetto, ma una specie di ghiacciolo che in un tubo chiuso sta. Io galippo e tu ten grip. Questa era Telecapone, dove esordì Francesca Pascale, caro David, e io ti faccio ascoltare qui una cosa molto preziosa. Scusami, che i nostri Pascale... uomini... Aspetta, Francesca Pascale, Francesca, sì, tu... Pascale, quella che secondo la signora Bonef è lesbica, però ecco, attenzione, no, sarebbe... a dire una cosa del genere oggi, perché la Pascale ha querelato Santoro, la Sette, il signor Cairo, tutti, e 10 milioni di dica. Euro, 10 milioni di euro, attenzione, chiede dica, 10 milioni di dica. Euro. A chiedere... Si sente, si ode una voce qui, fra poco ve lo presento, ma l'avete già riconosciuto, uno che sa tutto della signora Pascale, tutto, un attimo che arriviamo, perché c'è una cosa preziosa che voglio regalarvi. Quando la Pascale si candidò al consiglio provinciale della Campania, ti ricordi, David, no? Consiglio provinciale della Campania, signora Pascale fu presentata alle folle oceaniche da Gigino a Purpetta, signor Cesaro, sentite. Credo che questa candidatura sia una candidatura importante perché rappresenta, dopo il congresso del PDL, il Presidente ha dato un input soprattutto di investire sui giovani, sulle donne, e noi abbiamo eseguito questa direzione, abbiamo candidato tra la Francesca Pascale ma tanti altri giovani e tante altre donne nella lista del Presidente e nella lista della PDL. Cesaro, era il 2009, ma torniamo all'attualità, caro Parenzo, e come torniamo all'attualità? Con la frase clou alla fine, perché Santoro ha fatto tutta questa trasmissione ieri, servizio pubblico, su una frase e su un'affermazione. Pubblica. Come? Sevizia pubblica. Ah, sevizia pubblica, sì, ma non si sente niente, alza sta voce. Sono sul torpedore, non posso più tanto. No, alza, la Pascale è lesbica. Vivono in un mondo che non è vero e lei continua, loro vanno sui giornali dicendo che sono una coppia. Francesca Pascale è lesbica. Io sono stata con lei, ma non una volta. Avevamo un rapporto. E sai cos'è? Lo sanno in tanti. Ma una specie di ghiacciolo che non... Poi la Bonef ha detto anche che è andata a letto con Berlusconi per contratto, che lo stesso Berlusconi, sentiamolo questo, mi disse che a Francesca piacciono le donne, è successo un casino politico, sta succedendo per questo. Quando siamo andati ad Arcore, lui ci ha accolti e mi ha detto Michelle. Arriva. In questa occasione lui ha cominciato, ti devo raccontare di questa ragazza, Francesca Pascale, insomma lei è, a lei piacciono le donne, e è la prima volta che comincia a parlarmi di lei. Inizia tutto molti anni fa con la sua insegnante e avere un rapporto con la donna molto più grande di lei. Per molti anni, insomma, è stata molto innamorata di questa insegnante. Ma abbiamo qui con noi alla zanzara, caro Parenzo, alza la voce se non mi incazzo, Emilio Fede, buonasera direttore. Ciao, da dove è Davide? È in pullman, aspetta che facciamo risentire la canzone. No, non va a Međugorje, sta andando da un'altra parte. Aspetta che ti facciamo sentire quello che hai cantato alla sezione di Selle nella mitica puntata di Radio Belva, mai dimenticata. Storia musica, un po' essere stonato. Arte rosse, tu bisogna andare a conquistare la... rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospiro. Nella notte ci guidano le stelle. Beh, ma tu lo sai, Davide, che in realtà il direttore questa canzone la sa, cioè la sa davvero, cioè, la sa a memoria. Ma no, perché ha detto scarpe rotte, dice il testo, non rotte. Vabbè, direttore, canta la memoria, dai. La canta a memoria così. Fischia il vento, in furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Eccetera, eccetera. Ma bandiera rossa, eccetera. Ma è vero che hai insegnato a quelli di Sel bandiera rossa che non la sapevano? No, non la conoscevano, però poi hanno preso il via con me e siamo finiti. Vai, dilla a memoria, dai, bandiera rossa a memoria. Bandiera rossa, a memoria, Emilio. Come a ma memoria? La sai, la sapevi a memoria fino a pochi istanti fa, dai. Avanti popolo, alla riscossa. Popolo, alla riscossa. Bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti popolo, alla riscossa. Bandiera rossa. Trionferà. Oh, beh, vabbè, ho fatto un'operazione politica importante. Va bene, Emilio Fede è con noi, 800 24 00 24. È vero che conosci Francesca Pascale molto bene? Sì, molto bene, sono suo grande amico. Ma hai fatto da tramite all'inizio tra lui e Berlusconi? Dimmi non la verità. Ci sono problemi di tramite, assolutamente. No, tramite lei arriva per la via politica. Lei ha conosciuto. Lei è quella che ha fondato, si può dire, vabbè. Silvio Cimacchi. Oh, però, mi fai parlare o chiamo David? No, che però c'è? Emilio, no. Scusa, è vero che tu all'inizio il rapporto tra Berlusconi e la Pascale avveniva tramite te? Non è che avveniva tramite me, ero lì a qualche sera, a qualche cena, sì. E ho conosciuto anche lei, una ragazza mite come lei. Guarda, io ho detto e ripeto, sì. A proposito, sì. Di quello che si è detto, se c'è una cosa che, sì. Lei... proprio lesbica lei, manco se la vedo, senza avere nulla... Ma come fai a sapere, avere questa certezza? Ma perché, scusa. So, perché lei ci parlavamo... Ci davamo dei consigli reciprocamente, sì. Dei consigli, quelli che lei forse non ha ascoltato. Io sto attenta che col tempo sarai io ero l'invidiato speciale e tu sarai l'invidiata speciale. Cioè voglio dire, l'hanno accusata di questa cosa che ma poi come fai ad avere questa certezza che non è lesbica? Quello che dice la Bonef è tutto falso. No, quella dice quella Zubakova, come si chiama, Romanova. No, Bonef si chiama, l'ho vista, ma io l'ho vista. Dove, all'Arcore? Sì, beh, all'Arcore. Sì, certo, è no, stata. L'ho vista una volta. Vuoi entrare? Ho detto, pazza quanto è brutta. No, come no, è brutta? Sì, no? È brutta. Vabbè, è brutta. Ma brutta, brutta. Ma non è brutta, brutta. Emilio non è bruttissima, dai, brutta, su. E dici che è brutta. Perché sì. Tu non credi che è stata con Berlusconi, come dice lei? Zubakova? No, dai. Bonef si chiama. Vabbè, lo stesso. Zubakova di Bonef o Zubakova? No, no, lo so, se è stata lei. Lei dice di essere stata con Berlusconi perché voleva avere delle fiction, voleva fare delle fiction, eccetera, eccetera. Che poi ha fatto su Canale 5, pessime. Non me l'ha detto. Non te l'ha detto. Era brutto, brutto, brutto e anche non era capace. No, comunque la Zubakova io l'ho visto una ma volta. Ma è stata con Berlusconi o no? Ma guarda, io mica... Conoscendo Berlusconi. Io non avevo mica come cioè, incarico... su 30 ragazze che andavano lì, quante sì. Andavano con Berlusconi alla fine? Ah, bisogna chiederlo a lui. No, tu hai fatto una cifra. Io con nessuna. No, una statistica. Quante ragazze alla fine andavano con Berlusconi? Sono, su diciamo... 30? Sì. Forse 4? 4? Beh, magari non è ma male. Ma insieme. Quattro. Sì, vabbè, ma come no, 4 su 30 hai detto. Cioè, su 30 che entravano, 4. Ma vabbè, magari c'era la Bonef. Tra ma queste. Io non lo so, perché queste erano delle storie che non erano legate alle serate, sì. Alle cene. Questa Zubakova, Bonef si chiama. Come si chiama? Buona figlia. Bonef. Figlia. Sì, ma questa assolutamente, io l'ho visto una ma volta. Ma perché lo fa? Secondo te perché va da Santoro a dire queste cose? Perché ha detto che la Pascale è lesbica? Perché? Ma indovina perché? Dimmi perché. Ma perché avrà preso qualcosa? Da chi? Avrà preso, non so, un aperitivo. No, come no, aperitivo, no ma voglio dire, lascia perdere, dai. Ma perché lo fa? Perché va da Santoro? Perché sono a parte il fatto che Santoro si potrebbe risparmiare e ricordarsi che cos'era in passato. Cioè, in che senso? Era un grande professionista, vedi, Samarcanda. Era sì. uno capace di grandi inchieste. Poi ha cominciato a fare, a vendersi. Prima ha preso i soldi da Berlusconi perché ha lavorato a Berlusconi. Vabbè, ha lasciato la no. E poi è andato in Europa. È tornato all'Europa e è tornato a Berlusconi. Vabbè, quella è la storia. No, di ma Santoro. Lascia perdere. Come la lasci perdere? Ma che operazione ha fatto adesso? Lo stanno massacrando quelli del PDL. Gli stanno dicendo operazione quella che ha fatto sì, ieri, Santoro. Sì. È un'operazione paranoica. Paranoica. Paranoica, si è messo con la zuppa cova, vita cofa. Bonef! Ma Bonef, ma chi la conosce? Poi era brutta, ma proprio brutto, brutto, brutto, brutto. Ma come brutto? Ma che vuol dire? Era brutta. Ma come brutta? E quindi Berlusconi non va con le donne brutte. Beh, no. Che Berlusconi hanno sempre. Ma ne ho vista una che andava alle scene là, questa non so come si chiamava, che è una cosa terribile, dai. Scoranetta? Sì, scorchina, non mi ricordo. Scorchetta. Una russa, era terribile, dai. Era agghiacciante, dai. Ma all'epoca. No, ma voglio capire dal direttore, scusami, perché sì, sennò non entriamo nel sì merito. La questione è qui. Ma perché questa Bonef si inventerebbe una storia così pericolosa, no? Perché voglio dire, sarebbe una pazza scatenata. Perché? Le reazioni. Ma da chi ha preso ma i soldi? Tu sei razzista, perché le pazze scatenate non ci possono essere. Lei non può anche avere il diritto di essere una pazza scatenata. Guarda, al di là delle battute, te. Scusa, fatemi dire sinceramente, al di là delle battute, ma io ho vissuto 25 anni del mio lavoro a Mediaset e vedevo Berlusconi quasi tutti i giorni. Dunque? Quindi voglio dire, conosco bene come lui, conosco bene i rapporti che ha, soprattutto con le persone, cioè il suo rapporto di cortesia. Questa zappa cova. No, Bonef. Che sia andata a letto con Berlusconi, io manco se lo vedo. Ma come manco se lo vedo? Ma perché non è vero? Perché è andata da Santoro? Cioè, poteva avere di meglio Berlusconi, di meglio, di molto meglio. Ma voglio dire, ma una persona vede questa, e si presenta da Santoro e racconta adesso a tempo scaduto che cosa vorrebbe dire? Ma perché cosa? Indovinate, ma sembra perché che abbia mandato 15 giorni fa un messaggio alla Pascale in cui diceva: non mi avete aiutato, voi siete sempre sulle copertine dei giornali, eccetera. Guarda che donna straordinaria questa zuppa cova, guarda che senso del rispetto che ha. Ah, lei poverina, non ha trovato lavoro e allora io ti ricatto, no? Allora ti dico che sono lei dice anche che la Pascale ricatta Berlusconi. La Pascale? Sì, ricatta Berlusconi. Ma in che cosa? Ma vogliamo, che ne so, ma non guarda, lo so. Allora posso dire, io sono stato accanto a una porcinaia, guarda. Che dice? È una porcinaia. È una porcinaia, guarda, mi pare tutto una porcinaia questa cosa. No, però, scusami. Di lei, della Romanova. Scusami, direttore, però c'è qualcosa che non torna. Perché, perché questa qua se n'è uscita all'improvviso con questa storia della lesbica? È proprio la storia della lesbica doveva tirare fuori, perché? Allora. Sarà lesbica lei, dici? Sarà bene, sono affari suoi, deve trovare pure una che ci sia. Tanto è brutto. Ma scusa, ma abbi pazienza. Fatemi dire una cosa. Ma pure Bondi gli ha fatto fare un film a Venezia. Hanno fatto un finto premio. Bondi. Un finto proprio. Bondi, chi? Il nostro Bondi. Sì, certo. Nostro. Quando era nelle grazie di Berlusconi, perché questa qua è stata nelle grazie di Berlusconi, sta Bonef. Andava allora, d'arco. Al di là delle battute, mi piace essere sincero. Io questa l'ho vista soltanto una volta. E però, e t'ha fatto una schifo. Volta, no, non niente. Io l'ho visto, ho detto, ma questa brutta, che ci fa qua? Veramente, ve lo traffico, assicuro. Torniamo subito. Vabbè, secondo Fede è bruttissima, è una donna normale. Ma questo non significa niente. No, uno no, può certo essere lesbica, è brutta è lesbica. Lei è una brutta lesbica. Traffico. Insieme. La Zanzara. A proposito delle questioni che bollono in pentola nella politica, di cui non ci frega assolutamente nulla, tutta questa vicenda di Scelta Civica, Monti che si dimette, che forse fa un gruppo autonomo, le liti con Casini, delle cose di una tristezza infinita. Ma cosa vuoi che sia? Di una tristezza. Sentiamo Fiorello sulla scissione dell'atomo, va. Fiorello sulla scissione di Monti. Le zanzare di casa mia mi adorano bene. Signori, una notizia triste, tutti oggi noi addirittura non volevamo fare colazione. Non volevamo fare colazione, eravamo qua, Susanna, eravamo tristissimi. Eccolo qua, guardate, Monti lascia Scelta Civica, quindi Smonti, lo chiamiamo Smonti, lascia, attenzione, eccolo qua, hanno fatto la scissione del partito Scelta Civica, è talmente piccola Scelta Civica che questa scissione, pensate, l'hanno fatta al CERN di Ginevra. C'ha ragione, dai, su, ha ragione. Tutti a prime pagine dei giornali sulla scissione di Monti, ma chi se ne frega, chi se ne frega. Siamo qui, la Zanzara, io me ne fotto, non lo so perché non riesco ad appassionarmi delle vicende di Scelta Civica, cioè è come quelle interne del Partito Democratico, non lo so, non riesco più a appassionarmi, sarà un mio problema, non lo so. Ma ci sono novità invece sul cadavere del signor Priebke? No, cadavere di Priebke non ci sono novità. No, dov'è? No, poi vi riferiremo. No, adesso è stato chiesto la sepoltura in Germania, dunque dovrebbe essere ma sicuramente. Dov'è? è ancora nei paraggi lì a Pratica di Mare, è stato chiesto la sepoltura in Germania, si attende una risposta, bene. Eccetera eccetera. E voglio chiedere a Fede, ma chi è che faceva la cresta ad Arcore sul cibo? Ma la Pascale ha raccontato delle cose pazzesche. Mola. 80 euro facevano pagare i fagiolini, 80 euro al chilo. No, guarda, non credo Emilio. Che Francesca si sia occupata di ma come no? Ha detto ma qualcuno faceva pagare 80 euro al chilo. Chi è che faceva allora, la cresta? Francesca è entrata nel ruolo tranquilla, veramente a piedi scalzi, si può dire. No? Ma è vero che tu i rapporti tra lei e Berlusconi ogni tanto sono passati attraverso di te, attraverso il tuo telefonino. Lei ti chiamava dicendo voglio parlare col presidente. No. Sì? Lei mi chiamava, qualche volta mi chiamava e mandava messaggi dicendo Emilio sono preoccupata, sì. Io non voglio che si pensi che io sia qui per chissà per quale interesse. Ti chiedo un consiglio. Sì. Sarà bene che io firmi una carta nella quale dico che io non voglio assolutamente nulla in qualunque momento. Ma tanto non vale niente questa carta. Come? Ma si sposeranno secondo te? Dimmi la verità, si sposeranno? Non lo so, la tu che conosci bene la Pascale. Lei vuole sposarsi, diciamo. Vabbè, è anche umano, no? Dunque si vuole sposare, te l'ha detto. Lo pensa veramente. Lo pensa veramente. Sì, ma che è innamorata vera. Si vuole sposare, vabbè, innamorata. Sarebbe sposare. Vabbè. Una volta che uno si sposa, poi non è uno può firmare tutte le carte che vuole, però entri nell'asse ereditario. Non so se nell'asse ereditario ci possa ancora uno spazio per una moglie. Berlusconi non è facile. Beh, vabbè, non è che si sposa in 5 minuti per Berlusconi. È innamorato. Io sono convinto che. Ma lui è innamorato sul serio? Lui? Sì. Lui è innamorato. Sì, vuole molto bene a lei. Sì, volere bene una cosa, innamorato un'altra. Ma che ne so, qual è la differenza? Si può essere innamorati a 76 anni, 77 anni? Ma sono innamorato io a 90? Di chi sei innamorato? Di me stesso. Che c'è, Parenzo? Che c'è? Sì. No, voglio capire. Anche Berlusconi si vuole sposare? Chi? Anche Berlusconi si vuole sposare con lei o tentenna ancora? Un po' tentenna. Questa storia del matrimonio io non l'ho mai sentita. Beh, come l'ha mai sentita? Ha detto che comunque lei si vuole sposare, giustamente. Lei certamente pensa. Ma lui com'è? Cioè, guarda, lui teme un po'. No, lui piano piano sì. Già due volte, sì. Però non c'è due senza tre. Appunto, in tutti i sensi però. No, non c'è che c'entra. Lei è una persona... Berlusconi potrebbe, però attenzione, è molto... Lui è molto riflessivo, sì. Ovviamente pensando al futuro. Sì. Lei, il molto, merito di sì. Francesca è di essere stato accanto a lui nel momento più difficile. Certo. Quando io dico un uomo solo, cioè come un uomo solo? No, perché poi quando. Ma adesso c'è questo cerchio magico, no? Di nuovo questo nuovo cerchio magico. Hanno cacciato via un po' di gente. Guarda, non lo so, io onestamente non vedo. Non ne fai parte, vabbè. No, non vado ad Arcore da Ferragosto. Ci torni? So Hai in mente di tornarci? Penso di sì. Sì, ci torno. Sì. Tornerai ad Arcore. No, tornerò, se mi invitano torno, ci mancherebbe altro. Senti, tra Fazio e Brunetta con chi stai? Fra Fazio e Brunetta? E perché? Sto con Brunetta. E perché stai con Brunetta? Ma perché se buttano 5 milioni di euro per pagare un... Fazio ha cominciato con me ha cominciato, me l'ha presentato. Ma okay, che vuol dire? No, ma voglio dire, faceva i giochi magici, cioè con un sabò faceva comparire le carte. Ah, tu dici facevo test. Ah, sì. E lui si è presentato come uomo della magia. Poi piano piano. Ho capito quello che vuol dire. No, niente. Ma perché tutti quei soldi? Tu dici dovresti essere a favore del coso, dovresti essere a favore del mercato, dei soldi, eccetera. Dici che critichi 5 milioni di euro a Fazio. No, io dei 5 milioni di euro a Fazio mi vergogno. Perché? Ma perché sì, perché non esiste, non è possibile. A me per 5.000 euro o per 2.000 euro, ma voi a cominciare mi avete fatto un coso nero. Ma ho capito, ma perché ti vergogni di 5 milioni di euro a Fazio? Ma 5 milioni di euro, ma no, non esiste il problema. Perché? Cioè, ma perché è enorme, perché non c'è nessuno che valga questa cifra, perché la RAI deve pensare anche ai suoi debiti, al suo profondo. Ma lui ha detto che il programma lo paga la pubblicità. Paga un programma che funziona. Su, Emilio, dai. Comunque, stai con Brunetta. Vabbè, stai con Brunetta. No, sto con Brunetta. Sto con la gente che si stupisce, si stupirebbe, si stupirà che ci possa essere in un'azienda pubblica una persona che prenda 5 milioni. Che abbia un contratto. Mica in un anno, due anni di contratto. Ma perché che voi ci avete 5 milioni di euro? Ma che c'entra? Noi che c'entriamo? Ma figurati. Vabbè, ma noi non c'entriamo niente. Comunque Santoro ha fatto un buono share con Berlusconi parlando di sesso, di Bonef, della lesbica. Guarda, eccetera. Quanto ha fatto? Quanto? 12. Sì. 12 ha fatto lo stesso. Però quello che ho sentito, che la gente oramai non si può dire qui, ma ne ha le palle piene. No, si può dire. Allora ne ha le palle piene. Perché ne ha le palle piene? Le palle piene, stiamo facendo il processo a come è vestito al Perizoma, alle notti, come erano le notti, alla lesbica, se era lesbica, gay. Ma voglio dire, ma voi pensate. Di qualcosa, Michele. Michele, a Santoro, di qualcosa, Michele. Michele, ma ti ricordi quando facevi il giornalista vero? Ti ricordi quando facevi le grandi inchieste di cui si parlava su tutti i giornali? E c'era l'attesa di Samarcanda e un'altra trasmissione. Oggi? Oggi no, oggi c'è l'attesa dalla gente, che vuole la morbosità, ma anche la gente è disgustata, non se ne può più. Ma dai, ma ti pare possibile che secondo te la gente sta aspettando? Però alla fine questa ha tirato fuori sta storia della Pascale lesbica, e tutti parlano, sarà lesbica sì o no? Ci dai la prova definitiva che non è lesbica? Qual è la prova definitiva? Guarda, io mi rifiuto di pensare che la gente stia lì la sera. No, ma la prova definitiva qual è? Che non è lesbica? Qual è? Che perché io so, perché lei me l'avrebbe detto se aveva quegli strani desideri, perché parlavamo di tutto. Ma non ci sarebbe niente di male poi. No, assolutamente niente. Ci sono delle lesbiche straordinarie, io non le conosco. Grazie Emilio, giornale radio, a presto, tornaci a trovare. Radio Belva vive e lotta insieme a noi. La Zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai. No, chi è? Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist, la zanzara twist. Una botta a polpaccio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro. Allora, ciò che stiamo... Lei dice la verità perché non interessa nulla di ciò che sta dicendo, allora, di ciò che sta facendo. Bene, di tutto ciò che ho sentito finora, 45 minuti, allora, non me ne frega un... e non aggiungo altro. Non ne posso più di sentire parlare di Berlusconi, allora, di Bunga Bunga, delle signorine di Berlusconi. Non ne posso più, allora, Santoro. Allora, pietà di me. Ne posso più. È tutto chiaro, è tutto evidente, è tutto palese. Basta, basta, basta! Come ti stendi nel letto? Sì, però bisognerebbe dire al professor Cacciari che ieri è sbottato come un pazzo. Ieri... Ma perché va? Perché va? Cioè, perché ci ma va? Ma perché vado? Perché vado? Ma perché? Ma me lo domando anch'io perché. Mi telefonano, mi dicono l'argomento. E perché vado? Perché, Cacciari? Perché? Ti ho beccato. E da sempre ci ho provato. Titoli del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Napolitano difende la manovra, serve coraggio ma non incoscienza. Bisogna abbassare le tasse senza però inventare coperture fasulle. Imprese e giovani industriali, servono più tagli a spese e fisco. Record di indigenti, 4 milioni di italiani chiedono aiuto per sfamarsi. Le critiche di parte del PDL, le dimissioni annunciate da Fassina, Letta assicura problemi che risolveremo, il nostro è un provvedimento serio ed equilibrato. Monti, tradito da chi ho portato in Parlamento, Casini contro di me accuse ridicole dal professore, atteggiamento rissoso e inaccettabile. Basta con i sacrifici per i più deboli, a Roma il corteo dei sindacati di base e domani in piazza Notav, antagonisti, movimenti per la casa. Domani a Milano i funerali di Lea Garofalo, testimone di giustizia uccisa da 'Ndrangheta, a cui si era ribellata. La figlia partecipata in tanti. E 11 Nobel per la pace scrivono a Putin per la liberazione degli attivisti di Greenpeace. Sono accusati anche di detenzione di stupefacenti. La zanzara stronza. Che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. Ed eccoci qui, un finto Papa Bergoglio chiama Pier Giorgio Di Freddi dopo le sue uscite sull'Olocausto. Lui ci casca. Ascoltate. Pronto? Professor? Pronto? Professor, sì? Pier Giorgio Di Freddi? Sì? Sono Francesco, buonasera. Oh, ma non mi dica, veramente? Francesco, il Santo Padre. Il Santo Padre, mi alzo in piedi perché almeno questo glielo voglio dare come rispetto. Spero. Fa molto piacere sentirla. Come mai mi chiama? Spero di non disturbare il suo lavoro. No, sono venuto a Pordenone a fare un una conferenza su Lucrezio. Anzi, lei lo sa che noi ci incontriamo? Gliel'hanno detto?

sì, parlava in continuazione. Parlava solo lui, cioè il praticamente non lasciava. Non picchiava il Papa, cazzo, stai zitto, no? Io infatti se picchiava il Papa sto fermo, immobile, sto silenzioso. Zitto, ma non è che poi faccio la marchetta al libro, scusa. La marchetta sì, al libro, esatto. Non è incredibile. Cioè, scusa, io voglio dire questo, professore. È talmente borioso, professore, che lo chiama il Papa e gli fa la marchetta al libro. Sì, ho il libro da portare, perché non mi fa la... Sì, sì, è come se chiamo io, scusi. E noi gli dicessimo, guarda, c'è anche cattivissimi noi, se le piacerebbe commentarlo, le farebbe piacere. Ma come? Ma il Papa ti ha chiamato, gli fa la marchetta al libro, amico mio. Oddio, prendi, su. Se avete sentito bene Parenzo, perché si sentiva a cazzo, ha detto che Odi Freddi, non si sente, su, arrenditi, si sente male, dai, su, falla finita. Che succede? Che Odi Freddi diceva, telefonava al Papa, a un certo punto, senta, le porto pure il mio libro, così magari fa la prefazione. La roba da pazzi. Dai. Bene, 800 24 00 24, andiamo con Maurizio, provincia di Varese. Buonasera. Dica. Senta, io ho visto la trasmissione di ieri di Gossip, quella di Santoro. Di Gossip, adesso non esageriamo, io non sono d'accordo su questa roba qui, la trasmissione di Gossip, dai, non è così. Senta, io sono sempre più confuso perché non riesco a capire dove vogliono andare a parare. Allora, Berlusconi più di così mi pare... Senta, hanno preso una cosa molto semplice. Hanno preso una roba scritta dalla signora Bonef su Facebook o non so dove, scritta per la prima volta su un social network, su sua pagina Facebook. Hanno preso, l'hanno chiamata, non so se l'hanno pagata o no, non credo. Hanno detto, vieni al servizio pubblico. No, non pagano nessuno. No, infatti credo che non l'abbiano pagata. Hanno fatto una puntata intera sulla Bonef che dice che la Pascale è lesbica, che Berlusconi è andato a letto con Berlusconi, eccetera, eccetera. Va bene, ma ci sta, ci sta tutto. Ma qual è il problema? Chi se ne frega? Va bene così. Mi chiedo una cosa, ma non è che sono queste associazioni arci gay, arci lesbica, che vogliono sdoganare l'omosessualità ad alti livelli? Scusi, non ho capito. Non è che sono per caso queste associazioni arci gay, arci lesbica, eccetera, eccetera, che vogliono sdoganare l'omosessualità ad alti livelli. Ma in che senso? Scusi, non ho capito, scusi, che vuol dire? Vorrebbe dire che è una forma di pubblicità che loro cercano di farsi dicendo una cosa del genere. Cioè, no, secondo lei, non ho capito, secondo lei da chi è stata architettata tutta questa cosa della Bonef? Non credo, perché ho pronto l'ambulanza per ricoverarla in ospedale, Maurizio, mi dica. No, perché no. Lei è andato a pensare che sono le associazioni omosessuali che hanno fatto cosa? Che hanno architettato tutto per fare portare, per sdoganare l'omosessualità ad alti livelli. Ad alti livelli, sì. Ecco, ecco che lascio partire. Via, via, portatevelo via! Portatevelo loro, via, Antonio da Roma. Antonio, buonasera. dica. Buonasera. Vada. Senti, io chiamo per due cose. Una per... Sì. Facciamo una intanto, su. Ah, va bene, scusi. Allora, intanto devo dare ragione a Fede, perché mi sembra che Santoro... che è un giornalista, insomma, che perlomeno dovrebbe avere certe caratteristiche, continua a fare una trasmissione. Vabbè, ma uno deve fare, scusi, però Antonio, io su questo non sono d'accordo, non è che voglio difendere Santoro, non me ne frega niente, però uno deve fare 50 puntate, 40 puntate, quante sono, dall'inizio alla fine di una stagione, e la Bonef dice una cosa su Berlusconi, dice una cosa sulla Pascale, dice che è andato a letto con Berlusconi per avere delle fiction, eccetera, eccetera, è stata al Festival di Venezia grazie a Bondi e grazie a Berlusconi, e quello ci fa una puntata sopra, ma non capisco lo scandalo, francamente, è normale che Santoro faccia una puntata su una cosa di questo tipo? È normale, no. Poi scarico. Cacciari, ma certo che cerca pubblicità, ma è normale, cerca audience. Che deve fare Santoro? Mica pettina le bambole. Famosi, basta che insultano Berlusconi, ecco come fa. Ma insultano, fanno una cosa su Berlusconi, certo, ci hanno messo un pizzico di moralismo negli interventi ogni tanto, ma quello fa parte. Sì, come no, negli interventi loro. Ecco, qui no, dobbiamo scoprire se c'è la verità intorno alla vita privata di Berlusconi, tutte queste cose che non servono a niente. Hanno fatto una puntata guadagnando qualche share in più, qualche punto in più, perché c'era la ciccia erotica, la ciccia de sesso, col sesso si guadagna un po' di share. Questa è la realtà nuda e cruda. A Santoro della vita privata di Berlusconi non gliene frega niente. Ci hanno fatto un po' di discorsi moralisti ieri sera, e vabbè, pazienza, quello fa parte del mestiere di Santoro, di travaglio. Però il punto fondamentale è che hanno fatto una puntata su quello che ha detto la Bonef. C'era qualcosa di più interessante? No, devono fare 50 puntate, borsa. Ormai è tutto degradato. La Zanzara. l'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, lo conta un cazzo, un cazzo, un cazzo. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei, cantare. Siamo ancora qui, siamo ancora qui. Solo per disturbare. Siamo come lei, siamo come lei. Qualcuno si stupisce perché difendo Santoro e Travaglio nella loro costruzione, nel loro programma di ieri sulla vicenda Bonef Pasquale. Non è che io difendo quello che dicono. Per esempio, non difendo Travaglio quando sostiene, no, è tutto falso intorno a Berlusconi, Dudu è un topo, cose di questo tipo. Quello fa parte del cabaret. Diciamo pure quello che lui ha inseguito per anni andando a baciare tutte le pantofole dei cardinali e tutte le sottane porporate che incontrava facendo i family day eccetera eccetera, gli ha voltato le spalle perché di quel disordine non era particolarmente soddisfatto. Ecco perché stanno ricostituendo la Sacra Famiglia, ecco perché è importante sapere se quella Sacra Famiglia è quella che ci raccontano oppure no, altrimenti dovremmo pensare che Dudu non è un cane. Forse un giorno scopriremo che Dudu è un topo travestito da barboncino, perché non c'è niente di vero in quello che viene raccontato. Mai! Noi conviviamo con il falso da vent'anni. È importante sapere se la Sacra Famiglia è questa oppure no. Cioè, è importante sapere se la Pasquale è lesbica, sta con Berlusconi e lo ricatta oppure no. Ma cosa è importante sapere? Non è questo. Però loro hanno tutto il diritto, tutto il, senza essere tacciati di guardonismo, eccetera, eccetera, di fare una trasmissione sulle affermazioni della signora Bonef. Eventualmente ne rispondono in tribunale. Sono stati citati per 10 milioni di euro. Ne rispondono in tribunale. Ma qual è il problema? Cosa vi aspettavate? Che dopo l'uscita della signora Bonef da Santoro, da Servizio Pubblico, ma anche qui alla Zanzara, sono passati tutti quelli che hanno detto che Berlusconi, tutte le donne possibili immaginabili, mi sono fatto a Berlusconi, sono passati tutti. Ma non capisco qual è il problema. Se uno poi ha qualcosa da rimproverare, va in tribunale e fa una causa. Qual è il punto? Non ho capito. Qual è il punto? L'unica cosa coerente sarebbe da dire: io ho fatto una trasmissione perché in questo modo, invece di fare l'11%, faccio il 12,5, faccio quasi 3 milioni di telespettatori. Questa, beh, è la realtà. Solo per quello. Ma l'unica realtà è questa, perché altrimenti che cosa c'è secondo te? Cosa c'è? Ma perché non è una notizia, perché non è una notizia, scusi. No, ma quale, ma sì, è una notizia, cosa che la signora, no, Bonef dice, dire, che quella è lesbica, dire, è una notizia che dice che quella è lesbica, ma, dia, ma, è una notizia, ma di che stiamo parlando? Se tu l'avresti avuta, l'avresti data, l'avresti fatto. Ma certo, ma tutta la vita, ma ti sto dicendo tutta la vita, però dopodiché non siamo, è una notizia, cioè è una roba detta da uno, ma è improbabile, indimostrabile, uno di quelle cose dice, beh, è lesbica, beh, sì, d'accordo, è lesbica, cioè, ma di che parliamo, dai, su. Gasparri su questo, dai, su Santoro. Tutti scatenati, gli hanno detto di tutto a Santoro. Santoro, che è stato un giornalista anche di sinistra certamente, fazioso e militante, che ha alternato i seggi parlamentari nelle file della sinistra con le conduzioni televisive, a volte anche al soldo delle televisioni di Berlusconi. Mi pare che abbia fatto una figuraccia, perché è passato dal giornalismo d'attacco a Ciancimino Junior, adesso allo spettacolo di questa sera. Lo vedremo a Porta Portese vendere le divise usate di Mauro prima o poi. Questa è la fine di Santoro. Beh, addirittura a Porta Portese, con tutto quello che ha guadagnato Santoro fino adesso, non credo. Comunque gli hanno detto di tutto a Santoro: mafioso, cloaca, serial killer, macellaio. Ma vabbè, ma dai, su. Cioè, il fidanzamento di Silvio è finto, la Pasquale è lesbica e lo ricatta, questo ha detto la Bonef. È talmente, come dire, è talmente indimostrabile tutto questo, indimostrabile, a meno che non ci sia qualcuno che se ne esce dicendo è vero con delle prove. E poi, anche se fosse lesbica, ma chi se ne frega se è lesbica? Cioè, ecco, questo è il punto. Ma se è lesbica, lo ricatta, in che modo lo ricatta? Perché sa delle cose, allora tutti quelli che sono intorno a Berlusconi, sapendo delle cose, lo potrebbero ricattare. E infatti questo è il tema che lui ha sempre posto, è questo, ma, è sì, il tema della ricattabilità. Vabbè, ma, okay, ma che vuol dire? Dai, su, Claudio dalla provincia di Vicenza, in teoria la vicenda Bonef dimostra... Ma come, cosa vuol dire? Vabbè, Claudio dalla provincia di Vicenza, dai. dimostra il storico teorema di Santoro che tutte le ragazze, le signorine che sì, ma in questo caso chi? La Bonef, scusami un attimo, la signora Bonef ha tentato, secondo alcuni messaggi che sono stati anche mostrati, alcuni di questi qua, ha tentato di, come dire, di ottenere qualcosa fino a qualche settimana fa, diciamo la verità. Poi, siccome probabilmente non ha ottenuto quello che voleva o pretendeva altro, non lo so, adesso si è scatenata. Questo, c'è da dire questo, infatti è una porcilaia, dai. Dai, su, Claudio Provincia. Sì, ma non è tutto quello che avviene là dentro, cioè, non c'entra nulla in questo caso, Claudio Provincia di Vicenza, dai. Se uno si mette in situazione tutto quello che avveniva, scusa. Tutto quello che avveniva, Claudio Provincia di Vicenza, dai. Cazzo Parenzo, posso chiederti una cosa? Sì, tanto Parenzo non si sente stasera, per cui fra poco lo mando a fare in culo. Ma per cui... praticamente volevo chiedergli se ha più querelato quello che gli ha dato dello scacciafiga. Ma no, ma che c'entra, dai. No, ma quello non è da querelare, quello è divertente, dai, su. Ecco, comunque, già che ci sono, mi aggrego a chi invece ringrazia il servizio di Santoro per la possibilità di conoscere queste belle donne. Niente, ma che sta dicendo? È intervenuto per non dire nulla. Comunque, com'è indimostrabile, la stessa cosa di Lapo Eikan. Questa intervista al Fatto: a 13 anni ho subito abusi sessuali in collegio. Pare che poi il collegio non sia mai stato nemmeno dai gesuiti, come dice lui. Cioè, anche questo qua è indimostrabile. Cioè, no, a 13 anni ho subito violenza in collegio. Sì, vabbè, d'accordo, lo puoi dire, eccetera. Però poi come si dimostra tutto questo? Chi sono? Chi sono questi preti? In quale collegio? Ma pare che non è vero che sia andato dai gesuiti. Pare che non è vero, gente che ha frequentato i collegi dei gesuiti, che conosce persona per persona, pare che non sia andato al collegio dei gesuiti. Vabbè. Pare. Toni da Roma. Toni da Roma. Strumenti della signora Bone per dimostrare quello che ha Toni detto. Toni da Roma, no? Toni da Roma, non c'è Giampaolo da Fermo. Chi è che è caduto? Buonasera. Dica. Allora, una considerazione. Pensate qua la parola che avete usato di più tutti stasera. Dopo, questa è una premessa. Volevo fare Non ho capito. Stasera l'80% della vostra trasmissione, la parola che avete autorizzato di più qual è stata? Berlusconi. Sì, vabbè, allora. No, non chiamavo per questo, vengo al dunque. Chiamavo per difendere il concetto di fatto. Allora, prima di tutto bisognerebbe ricordarsi che 4 anni fa un grande personaggio televisivo, per una trasmissione che è durata una sola serata, vi ricordate quanti miliardi si è preso? Chi? Se non ricordo male, non so se era Sgarbi, chi fu. Per una sola serata, perché poi la sua trasmissione fu chiusa, ma il contratto ce l'aveva, è stato pagato ugualmente. Ma non lo so, Sgarbi è stata chiusa, voi siete più informati. Ferrara, ma non fu chiusa. Riflettete su questo. Ma su che cosa dovremmo riflettere? Non ho capito su cosa. Questo, su un concetto economico. Allora che facciamo? Mettiamo in prima serata tutte le sere Report perché è una trasmissione che ci costa poco? Mettiamo in prima serata, mettiamo il lunedì. Ma non si è capito, scusi Giampaolo, non ho capito. Si vuole spiegare meglio perché questa sera divento pazzo. Si vuole spiegare è un meglio. Un concetto economico. Sì. Una persona più riesce a dare, più riesce a guadagnare. Giusto? Si sono lamentati perché Fazio guadagna tutti questi soldi, ma è stato anche dimostrato che non li fa perdere al servizio pubblico, con la pubblicità riesce a starci dentro, primo. Secondo, se Brunetta sapeva che quello guadagnava così tanto, che cosa c'è andato a fare? C'è andato perché Fazio ha audience, quindi se ha audience tutti lo ascoltano. Non c'è dubbio, anche per questo è andato. Allora se ne poteva stare a casa, lui si deve andare a fare polemiche. Va bene, grazie. Fabrizio da Torino. Buonasera. Dica. Volevo solo dire una cosa a proposito dello scherzo di Freddi. Sì. Innanzitutto di Freddi numero uno, un grandissimo, è stato educato, è stato simpatico. Beh, era col Papa, pensava di stare col Papa, che doveva fare? Mandarlo a fare in culo, scusi? Non lo so. Completamente l'imitatore non so più che dire, è rimasto con la merda in bocca, come si dice. Chi? L'imitatore del Papa, a un certo punto non sapeva più che fare, che dire. Beh, certo, allora, perché quello parlava sopra, era scatenato. È stato un grande, e io voglio dire una cosa, voi perché dovete sempre fare il commentino alla fine per fare notiziona? Ah, perché Odi Freddi è stato ossequioso? Beh, un po' ossequioso è stato, ma appunto non è mica una... È un ateo, lui pensa, è stato, come lui stesso ha dichiarato sul suo blog, tra l'altro, emozionato dall'autorità del capo di Stato che è il Papa. E poi è stato, ovviamente, nella sua visione del mondo atea, a parlare una persona, quindi... Ma qual è il problema? Non ho capito. Il problema sono i vostri commenti, dovete sempre fare commenti. I nostri commenti, ma noi che ci stiamo a fare qua? Le belle statuine? Ma non fate sempre commentino alla Ma che cosa facciamo qua? No? Che facciamo qua? Che cosa ci stiamo a fare secondo lei qua? No, mi spieghi lei, che cosa ci stiamo a fare? mi faccia un commento simpatico ogni tanto. Ma che cosa ci stiamo a fare? Non piacciono. No, ma no. Siete molto bravi nel formato che avete deciso di fare, cioè dei rompicoglioni, siete bravissimi. Questo ve lo devo proprio riconoscere. Detto questo, ogni tanto esagerate un po'. Beh, poi io sono un appassionato di Odi Freddi, quindi lo amo, e quindi quando mi toccate Odi Freddi mi incazzo, tutto qua. Ma no, ma noi non tocchiamo nessuno, abbiamo fatto un piccolo scherzetto, cioè... No, ma lo scherzetto era bello, e secondo me Odi Freddi ne esce valorizzato da sta roba qua. Può essere, può essere. Silenzio la vecchia! Sta parlando adesso. Maria Giovanna, ho detto che lei ha ragione. Lei sì, ha... certo che ho ragione. Io ho solo paura di quella vecchia. Io sinceramente non vorrei fare un incontro di pugilato con lei perché dai, vedo dai, chiamamola. Perché viene. Ma tu, se ti sei battuto per essere nella lista, per essere un nominato. Non mi sono mai battuto, sì, io sono stato. Nella lista, non ti hanno messo nelle liste. Non mi sono mai battuto. Ma dai, Vittorio, dillo però. Ma tu dici delle cose diffamatorie. Ma io lo non sai. Sono mai, no, lo sai, sono, volevi stare nella lista con Berlusconi e non ti ci hanno messo. Ma non mi sono mai. Ma tazza di merda! Oh! No. Non ci sono mai voluto essere, non devi dirlo! No, dai. Io! Allora, se allora fai una cosa, documentalo, ti denuncio. Ma lo so, documenta, dai. Ma ti piccio in testa. Ma faccia di merda. Ma guarda, se devo sentire un cretino. Ho fatto esattamente il contrario. Siamo qui 800240024 con Davide Parenzo in torpedone traballante tra Roma e Siena, no, tra Siena e Roma, non so dove. È ripresa la moda del almeno fai un po' di show, vai accanto a qualcuno, fai casino, no, chiama qualcuno. Voglio dirti questo, beh, è stracolmo, la gente dorme a quest'ora, riposa. Sì. Ma volevo dirti questo, ma hai visto che hanno fermato 5 Black Bloc, che hanno fermato perché domani c'è questa manifestazione dei tuoi amici Notav. No, veramente i miei amici non troppo. Allora e hanno fermato dentro questo furgone, c'erano mazze, bastoni e biglie. E biglie. Vabbè, i pacifisti, no? I pacifisti. No, ma quello che dico io è che hanno blindato la città. Cioè, hanno detto ai cittadini. Ma no, domani. Hanno blindato la città. Che cosa strana, cioè. I grandi approfondimenti di Parenzo, le grandi letture del giorno di Davide Parenzo. Tazza di merda! E con noi Marione Borghezio, buonasera! Buonasera, buona Padania a tutti! Aridaglie con sta Padania, aridaglie, aridanghete, aridanghete! A Padania non muore mai! Senta, ma non è che ce l'ha lei la salma di Pribke, caro Borghezio, no? No, non si vedono salme, qui in Padania non abbiamo salme di sepolte. Ma scusi, però potrebbe essere sepolta in Padania, sarebbe una cosa buona e giusta, lei è un cristiano doc, come dire, no, la sepoltura non si nega a nessuno, Marione, no? Io dico che al di là di tutte le polemiche, eccetera, nelle quali ovviamente non voglio entrare, perché no, per carità, sono già tutte le cose che ho avuto. Devo dire che però diciamo qualcosa, no? Parlando, chi ne esce bene in tutta questa situazione nella quale, diciamo, lo Stato italiano non fa una gran figura, sono i buoni e umili sacerdoti della Fraternità San Pio. Ah, i lefebriani, dici, lefebriani, certo. che hanno fatto quello che avrebbe dovuto fare forse qualcun altro, leggi il vicariato, e quindi lei è molto lefebriano, lei è molto lefebriano, no? In luogo contro il vicariato, che direi che non ha seguito molto bene la lezione del Vangelo, sembrano hanno fatto un po' più la parte di quelli che seguono l'esempio di Ponzio Pilato. Un po' sì, devo dire la verità, anch'io la penso. Del fondatore del anch'io del, la penso del fondatore così. Che dice che il cristiano ovviamente deve essere un coraggioso, deve testimoniare la sua fede, avere il coraggio anche di decisioni difficili. Beh, caro Borghezio, sono d'accordo con lei, però dobbiamo dire qualcosa anche su io sono assolutamente d'accordo, inutile che ti scaldi, Parenzo, tanto sei nel pullman, non ti puoi scaldare troppo. Io sono d'accordo con Borghezio, la Chiesa Cattolica Italiana, dice Borghezio, la Chiesa ufficiale del Vaticano, si è comportata come Ponzio Pilato, perché ha scaricato il signor Pribke, per motivi di opportunità, giusto Borghezio? Per quali motivi? Ma è difficile capire e anche le responsabilità. Io sono convinto che qui ci sia stata un po' una gara a voler dimostrare alle alte sfere di aver tolto una castagna dal fuoco. Ecco, ma Don Floriano, lei lo appoggia Don Floriano Abramovic? Io non ho sentito purtroppo quella trasmissione perché ero all'estero e non sì. ero a Bruxelles. Beh, ha detto che no, ha detto semplicemente che le camere a gas non ci sono prove, sono state usate. No, non lo seguo in queste cose e anzi colgo l'occasione perché mi pare che questa sera ne trattiate proprio in maniera giusta, con serenità. Sì. Io devo dire una grande cosa, serenità. Esatto, io devo dire una cosa che indubbiamente dopo aver sentito come tutti, ho visto come molti il video di Prip, che è sì. un punto fondamentale. Qual è? Che secondo me va sottolineato, e cioè con analisi storica fredda e obiettiva, sì. che i tedeschi commisero, lo scriveva un grande studioso della guerra civile che è stato i tedeschi commisero un errore imperdonabile, perché cioè? Errore nella trappola della resistenza comunista, cioè della parte più schifosa della resistenza, sì. che se ne fregò di quelle che sarebbero state le conseguenze, cioè dunque Pripyat era soltanto al proprio interesse politico, sì. quello di egemonizzare quello che in tutti gli altri paesi d'Europa fu soprattutto un fenomeno, diciamo, di dignità nazionale, la lotta dunque, contro la scusi, miniera, scusi Borghezio. Loro pensavano solo a far diventare l'Italia un paese comunista e farci passare da un regime totalitario ad un altro. Però scusi Borghezio, dunque Prip, che quando dice che i GAP volevano una rappresaglia, aveva ragione. Quando si dice che i GAP volevano la rappresaglia, non lo dice Pripyat, no, lo dice però la storia. Però quando lo dice Pripyat, quando lo dice Pripyat, che significa che dice una verità da questo punto di vista. Tutti gli orologi, un certo momento, anche un orologio, diciamo, sbagliato, fermo, una volta al giorno dice l'ora giusta. Appunto, è un fatto storico, anche Pripyat che una rivisitazione delle responsabilità oggettive di Via Rasella a 60 anni dagli avvenimenti sarebbe ora di farla, e a mio avviso dovrebbero farla proprio coloro che a cui stanno a cuore le memorie delle vittime. Dunque il capitano, da questo punto di vista, il signor Pripyat, che non ha detto una stupidaggine quando ha detto che i GAP volevano la rappresaglia. Ma io non voglio parlare del signor Pripyat, perché però la serenità oggi politica, no, ma si può politica, Borghezio, lei è una persona serena, da questo punto di vista qua è una persona serena e anche una persona esplicita. Quando Pripyat che dice che le ardeatine furono la colpa delle ardeatine fu colpa dei comunisti, dei GAP che vollero la rappresaglia, dice una verità storica o no, secondo lei? Mi dica sì o no. Non dice quello che dovrebbe dire, completare il pensiero, cioè che lui e i tedeschi furono dei coglioni a cadere nella trappola dei comunisti. Sì, questo d'accordo, dice, però questo lo dice e dovrebbe fare anche un mea culpa, perché la rappresaglia in una guerra terroristica, rivoluzionaria, è un'idiozia totale, perché è un regalo che si fa alla parte avversa. Beh, dunque fu un regalo alla parte avversa. Non dice che si comportarono oltre che male nei confronti di persone innocenti, perché la gente che viene prelevata in casa e portata alle ardeatine, voglio dire, è una cosa... E siamo nel clima dell'assurdo. E questo non significa che oggi tutto questo cancan di prendere a calci e pugni e sputi un feretro, come hanno fatto quelli bravi ragazzi di Rifondazione Comunista, fa vergogna. Direi che sono riusciti a superare lo spettacolo vomitevole di Piazzale Loreto, che giustamente Ferruccio Pari descrisse come un momento di macelleria messicana. Per cui hanno superato Piazzale Loreto. Hanno superato Piazzale Loreto. Sì, certo. Va bene, abbiamo la pubblicità. Abbiamo la pubblicità. Mario, aspetta un attimo. Pubblicità, torniamo subito con Mario Borghezio, Lega Nord, parlamentare europeo. Chissà fino a quando, adesso ne parleremo. 800 24 00 24, a tra poco. Viva la Padania, l'Italia non conta un cazzo. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. La Zanzara. Tu sei come Quindi lui mi ha detto che mi avrebbe aiutato. A quel punto sono iniziate le sue avance, fino a che a gennaio, fine gennaio 2012, grande festa, e alla fine della festa siamo stati insieme. E lei come l'ha vissuto? Che sperava in più di ottenere? E eravamo andati così lontano che se io non avessi, il contratto non arrivava. Sei gelosa più di me, scappo sotto al letto, non parlare, non gridare, tu sei come una piccola zanzara. In questa occasione lui ha cominciato, ti devo raccontare di questa ragazza, Francesca Pascale, insomma lei è, a lei piacciono le donne, e è la prima volta che comincia a parlarmi di lei. Inizia tutto molti anni fa con la sua insegnante, e avere un rapporto con la donna molto più grande di lei per molti anni, insomma è stata molto innamorata di questa insegnante. Le gambe sulle braccia, poi mi punge pure in faccia, sotto i piedi, tra le dita, e comincia la partita, la zanzara punge scambio. La chiamavano escort al di là, ecco, di fatto mi chiamavano escort, ho chiesto di fare insomma delle smentite quantomeno per il mio nome. Lui ha preso il foglio che ero, insomma, la nuova esco con la mia foto, ha fatto: oh, questa sei tu, che belle tette che hai. Vabbè, questa è la Bonef con la Pascale che chiede 10 milioni di danni. 10 milioni di danni se la vedranno. Beh, in tribunale, danno. Chi se ne frega, che dici Parenzo? Che no, dico, il danno quale sarebbe? Quello che ti hanno detto, che le hanno detto che è lesbica o che è ricatta, che le cose, se ti dicono che sei lesbica, dov'è il danno? Cioè non è mica un'offesa. Ma io non lo so, che adesso che fa, no? Il giudice, non ho capito, cioè fai il giudice? Ti sei messo a fare il giudice? Non lo so, avrà 10 milioni di euro per diffamazione. Per diffamazione, che vuoi che ti dica? Per diffamazione. Il conto è se dicono Cruciani è uno stronzo. Vabbè, Davide, se non hai niente da dire è una cosa, se hai qualcosa da dire di serio, no, bene. No, niente da dire perché sono se non hai niente da dire che non sei un cazzo, va bene. Filippo da Padova. Buonasera. Buonasera. Dica. Intanto io ho 21 anni, vi ascolto tutte le sere e volevo dirvi che siete proprio due rompicoglioni, ma in senso buono, cioè ci stanno in questa Italia che sta un po' andando in merda, come si può dire. Vabbè, poi... E volevo fare un piccolo intervento a quello che ha detto prima il deputato di Lega Nord, che mio padre ha detto che se ci sono problemi per la salma, che non sanno dove buttarla, è solo una questione di soldi per mettersi d'accordo e la seppelliamo da noi, non c'è problema. Ma dove? Ah, qui in giro per fare, in giro in Veneto, ma senza dire dove, sennò non vale più. Vabbè, ma perché non ve la prendete in Padania, Borghezio, sta salma di Pripke? Su, dai, decidiamoci. Faccio un appello lei, Borghezio, prendetevela in Padania, dai. Direi che non confondiamo i piani. Tutti sanno che mentre, diciamo, la cosiddetta resistenza al sud fu... Ma lei che è un collezionista, di... Voi capite che io come diciamo modestamente capo del governo della Padania, esatto, devo rappresentare anche i sentimenti diffusi di coloro che in Padania combatterono per la libertà. Al sud... Però lei è un collezionista, di cose del Terzo Reich, di come dire... No, di... io sono collezionista di storia e in particolare... Non sono collezionista di cose militari, quindi... Beh, qualche pezzo ce l'ha, dai, qualche pezzo... Cimelio. Qualche cimelio ce l'hai. Non sono collezionista di in particolare di quel periodo, sono però cultore della documentazione storica. Vabbè, ho capito, ma avere oggi la salma di Pripke potrebbe valere qualcosa o no? No, vabbè, non mi sembra che sia il caso, a parte il fatto che forse è già stato... Ma che vogliamo dire della Chieng che vuole dare la pensione agli immigrati che tornano a casa? La pensione, oggi ne ha detta un'altra delle sue, perché che ha detto? Interrogata su una replica, una dichiarazione del segretario della Lega Nord, ha detto che ma chi è costui, come dire, non è nessuno. Ah, sì, ha detto questo. Ogni giorno la sua battuta. Io voglio ringraziare perché anche oggi ha detto la sua incredibile cazzata e tutte le volte che parla, come ben noto, ci dà vantaggio. E sul fatto della pensione per gli extracomunitari che sono al loro paese. E io dico il calcio in culo sì, la pensione no. Ah, il calcio in culo sì, dici come? Tu. Il calcio ma in no, culo. Ma è violento. Ma che violento? Ha detto il calcio in culo sì, la pensione no. Però se uno ha lavorato in Italia. Sono soldi suoi. Mario, sono scusami. Soldi, io parlo dei clandestini naturalmente, non di chi lavora. Beh, no, il calcio in culo sì, ha detto il calcio. Guadagnata. Ho capito, però. Per la signora sono tutti bravi ragazzi, compresi i clandestini, e per me sono tutti clandestini. No. Per un ovvio senso di, diciamo del rimando, ecco, a polemica, perché per la signora sono tutti bravi ragazzi, sono tutti clandestini, non esistono quelli che stuprano, non esistono quelli che spacciano, e sono tutti degni di avere la pensione dopo aver svolto sì. la nobile attività magari di spacciatore eccetera. Io dico che questi qui, altro che pensione, un bel calcio in culo. E scusami Mario, ma sì. Salvini è il tuo favorito, il tuo preferito per diventare segretario della Lega? Ma io penso che il miglior segretario Lega, chi è? Per quanto mi riguarda deve essere un esponente indipendentista, deve essere una persona che crede nell'indipendenza della Padania. E allora Salvini? Sentiremo i programmi dei candidati. No, ma tu il tuo preferito chi è? Il tuo candidato, fino dai. Adesso, ma fino adesso ma nessuno ha preso una posizione chiara sul punto dell'autodeterminazione dell'indipendenza della Padania. Quando sentirò impegni precisi prenderò posizione. Vabbè, ma così a naso chi è quello più vicino alle idee di Borghezio? Chi ha naso? Nessuno sa come Borghezio, mai. Però ma quello più vicino. Basta che parlino chiaro. Ma il più vicino chi è? Salvini? Ma non conta, non è che conti Borghezio, conta l'opinione dello zoccolo duro, e si è sentita al corteo di qualche giorno fa a Torino. Però Mario, scusa, d'accordo. Il Zoccolo duro è indipendentista. E allora quindi, Salvini è il segretario migliore? Allora bisogna che il movimento si renda conto sì. Che il nuovo segretario deve anche interpretare anche questo sentimento profondo della sì. Base militante. Senti, ma la Chieng si può dire che la Chieng sia la salvezza della Lega da un certo punto di vista? Cioè, non ho sentito che la Chieng sia la salvezza della Lega, cioè più parla e più prende voti. Ma questo è evidente. Fatto, cioè la Chieng è una delle vostre salvezze. È una propagandista della manica, è una propagandista gratis, capisce? Quindi quando la fortuna politica è avere un avversario imbecille. Quando l'avversario imbecille, questo come filosofia sì, generale. Sì, certo, no? Certo, perché no? No. Basta vederla in faccia e uno capisce che è un morto di intelligenza. Io parlo in generale, sì, certo, senza certo. Riferimenti a no, per carità, per quindi carità. Quando si ha la fortuna di avere un avversario imbecille, sul piano politico fa dell'imbecillità la sua professione sì, quotidiana, quello certo. Vuoi di meglio. Beh, certo, dunque lei stappa bottiglie di champagne ogni volta che parla, dice lei, no? Ma questo certamente. Direi che è un regalo. Bisogna pare che sia stata la Turco a inventare questa sì, candidatura. Così ci ha detto il marito. Direi sì. Che è un degno successore dell'altra. Quando era ministro l'altra per noi era una riga, perché anche quell'altra mostrano di simpatia anche lei, cioè, non solo di simpatia, direi che un consigliere di Bardonecchia ha detto che quando viene la Chieng faremo la disinfestazione. Ha torto secondo lei? Mamma mia. No, queste sono espressioni, ha chiesto scusa, sono espressioni non consone al ruolo politico istituzionale, io non le userei. Lei non le userei. Senta, ma una domanda finale, Borghezio, lei si candida? Anche sì. Simpatica, ma guardi che qualche giorno fa è arrivata al Parlamento Europeo sì. E era lì solo soletta, anche un po' smarrita, io sono stato la persona che l'ha accolta. Beh, insomma, certo, con grande gentilezza e anche a me anche simpatica, perché ripeto. Ma lei andrebbe a cena a casa della Chieng? Regalo della provvidenza. Lei andrebbe a cena a casa della Chieng? Ma evidentemente sì, basta che mi inviti, arriverei anche con una scatola di cioccolatini. Però perché in fondo è all'enciculatina anche Chila, quindi nel senso ovviamente simpatico. Amico. Cioè, in che senso? Alla? Ma è uno dei lati simpatici della ministra, che è orgogliosa. Ha detto una sì. Cosa che io ho molto apprezzato, ve l'ho detto anche sì. Quando è venuta in Europa la prima volta, orgogliosa di appartenere alla sua etnia, e questo sicuramente le sì. Fa onore, quindi la bella scatola di cioccolatini di Torino gliela porterei volentieri. Vabbè, comunque Salvini ha detto che è meglio la castità piuttosto che stare con la Chieng, meglio la castità, signor Salvini. Vabbè, ma Salvini è un ragazzo giovane che effervescente, che ha anche delle facile alle battute simpatiche. È una battuta simpatica, ma io non la condivido. Non la condivide, tanto lei comunque la tanto lei comunque ha professato la castità ormai, che gli frega. La Chienge indubbiamente ha delle doti di simpatia. Proprio simpatia. Poi, ripeto, è il ministro più utile che potesse esserci per noi. Per il paese non lo so. Ma lei sa che quello che è utile per Roma è dannoso per noi e viceversa. E quindi che per noi è utilissima. Grazie Mario Borghezio, grazie. Si ricandida grazie al Parlamento europeo. Buona giornata a tutti e mi raccomando, Borghezio si candida di nuovo al Parlamento. Si candida di nuovo. Moderati, cauti, tranquilli. Moderatissimi, si candida. Grande rispetto per il politicamente corretto. Grandissimo rispetto. Borghezio, io voglio capire, si ricandida al Parlamento europeo, sì o no? Io sono facciamo un annuncio, sì o no? Come si dice, siamo nelle mani della provvidenza. Ma che vuol dire? La Chienge aiuta. Aiuta la Chienge, Aiuta. Pubblicità. Non temiamo più lo sbarramento. Con la Chienge che parla tutti i giorni, lo sbarramento del 4% non ci fa più paura. Pubblicità. La Zanzara. Siamo qui 800 24 00 24. Però Borghezio l'ha detto di tutti i colori, che la Chienge è una cioccolatina, è un imbecille, eccetera eccetera. Vabbè, Mauro da Palermo, buonasera. Un imbecille moderato, però alla fine gli è scappata il calcio del sedere. No, alla fine gli è scappata la pizza. Che c'è Mauro? Buonasera Cruciani. Allora? Senta Cruciani, ma lei si ricorda che sul giornale è uscito che quel ragazzo lì che ha trovato 4.000 euro al supermercato, no? Quello che ha trovato al supermercato, sì, che 4.000 euro le ha consegnate, no? Sì, vabbè, l'ha restituiti, vabbè, le allora... ha restituiti, niente, se vogliono dare anche un premio o qualcosa del genere. E io allora, visto che sono palermitano come lui, volevo dire qualcosa a questo ragazzo che mi sta aspettando. Posso? Minchia, sei un coglione! Ma stai tranquillo. Che è successo? Con chi vuoi parlare? Non ho capito. Voglio parlare con questo signore che ha consegnato 4.000 euro. Sì. Che è un grande stupido. Vabbè, cioè, dillo. È un cretino. Ma non perché? È uno psicopatico. Perché? Ma sì. Questo è soltanto uno psicopatico, uno che fa così, Cruciani. Ma si rende conto? Trova 4.000 euro, lui cosa fa? Fa l'eroe. Mi consegno. Ma ci rendiamo conto, Cruciani? Vabbè, ho capito, Mauro. No, questo qua è da portare e fare subito un trattamento sanitario. Su, comunque, la ci vuole, guarda, dipende lui. Che cosa c'è, adesso non me la ricordo sta notizia perché non l'ho vista. Ma no, guarda, se mi sta se io trovo, come l'ha trovati sti 4.000 euro, scusi? Allora, lui era al supermercato, il commesso del supermercato, che si prende 1.000 euro, anzi, 900. Sì. Cosa fa? Trova 4.000 euro, un portafoglio, cosa fa? Lo... va a cercare tramite con la telecamera di chi era e ha trovato che era di un extracomunitario che tra l'altro se n'era andato anche in India. Cioè, figurati, Cruciani, se n'era andato in India, però ha trovato, però scusi, ha trovato, scusami Mauro, ha trovato il proprietario o no? Sì, il proprietario gliel'ha consegnati. Beh, ho capito, però da questo punto di vista non lo posso biasimare. No, è una cosa sbagliatissima. Perché questa. Sbagliatissima? Perché non sbagliatissima? Non possono consegnare 4.000 euro così. Ho capito, Mauro, questo qua tra l'altro li ha restituiti a un extracomunitario che li aveva persi. Non ha dato neanche una lira a lui, lo sa che gli spetta qualcosa anche a lui su questa cosa, La legge dice che capito, ma questo qua cifra, vabbè, lasciamo perdere questa cosa qua. Però questo qua si era guadagnato dopo mesi di lavoro in Italia i soldi da portare in Asia, da quello che leggo, no? Appunto. Sì, sulla strada ha trovato un po'. E chi l'ha detto che questo qua non era soldi illeciti o ma che vuol dire? Non erano soldi illeciti, erano soldi guadagnati dal suo lavoro, dai, erano 8 pezzi da 500 euro. Comunque li ha restituiti. Sì, ma oggi nel 2013 come si fa a cose? Io non ci riesco. Cioè, ma che doveva fare? Lei non ci riesce. Questo. Io non so che cosa avrei fatto, devo dire la verità. Ecco, allora, Cruciani, facciamo una cosa. Tu che cosa avresti fatto? Non lo so cosa avrei fatto, non lo so. Cioè, non lo so. Li consegnavi, Cruciani? Non lo so, guarda, dipende. Se c'era davanti nome e cognome di una persona su quella busta là, se li vedevo cadere dalla tasca, li consegnavo. Adesso non è che sono un bandito. Certo, se trovo 4.000 euro, se trovo 4.000 euro per strada in una busta, chi li do? Me li metti in tasca, Cruciani, ma si ti rendi conto quanti... Scusa, non ho capito, se tu... dalla mattina alla sera. Se tu hai un indirizzo. Ma non sono tutti ladri, eh. Cioè, se tu hai un indirizzo in quella busta. No, attenzione, Parenzo, questo non è ladro, eh.

Sì, volentieri. Per volentieri. Fissare... Io tra l'altro mi permetto in questa occasione di chiederle una cosa, perché lei sa che il suo predecessore, Benedetto XVI, mi ha scritto una lunga lettera, non so se lei l'ha vista. Non ho letto questa sua, sua lettera. Perché, sì, perché io avevo scritto qualche anno fa, due anni fa, un libro che si chiama Caro Papa, ti scrivo, no? E l'avevo indirizzato a Benedetto XVI ed è un lungo commento sulla introduzione al cristianesimo, no? Di Benedetto. Mi farebbe molto piacere leggere questo. Io lo porto, anzi, se lei poi sa, l'unico che può fare una prefazione al libro con un papa no, è un altro papa, naturalmente. Noi lo pubblichiamo ai primi di novembre. Se vuole sa che cosa posso fare, se mi chiama la sua segreteria le faccio mandare le bozze, lei magari lo guarda prima di incontrarci, così possiamo parlare di queste cose. Mi farà molto piacere, la chiamerà la segreteria d'Stato. Perfetto. Per così fissare anche la lettera che mi ha scritto Benedetto. L'appuntamento. Una lunga lettera, quindi benissimo, sono molto contento. Sono felice di questo. Allora anzitutto la vedo di sicuro alla messa, io starò in silenzio perché non essendo un credente però sto a sentire quello che dice, e poi se appunto riesce a trovare il tempo in quel momento io mi fermo dopo la messa e facciamo una chiacchierata anche noi. Farà molto piacere, che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. La ringrazio. Buonasera. Sono credente, ma l'accetto molto volentieri. Allora. Buonasera. Un saluto molto e aspetto di vederlo la prossima settimana. E buon riposo. Arrivederci. E siamo qui con Elena Grimaldi. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Bresciana doc, caro Parenzo. Ma in studio? È in studio, tu ti perdi sempre le cose più belle che avvengono qui alla Zanzara. Vabbè, ma allora dalle un abbraccio fortissimo da parte mia. Ma sì, te lo do abbraccio, adesso non esageriamo, è fidanzatissima, qui non si può fare niente, perché io ma lo prendo volentieri, un abbraccio va bene sempre. Scusami un secondo, perché mi hanno chiesto qui sul torbellone una cosa importante. Sì, dimmi. Come è andata a finire ieri dopo la trasmissione radiofonica con la signora Efe Ball? Perché qui sostengono che hai avuto una relazione, sì, dici, una storia. Ha leccato i piedi, ma no, detto, questo è lei che voleva leccarmi i piedi, io non ci sono stato, abbi pazienza. Ma com'è finita? No. Mi chiedono da ma qua. Non è finita, nessun modo, è andata via, signora Efe Ball. E stasera che... come finirà? Ma che sia, la signora Grimaldi mica fa la prostituta con la signora Efe Ball, no. Detto con tutto il rispetto della prostituzione, ma per carità. Ha fatto la pornostar per un po' di tempo, per qualche anno, e adesso no, fa... la stai già corteggiando. Ma no, voce, ma io non corteggio nessuno, ma non sei pazzo, io qui soprattutto in diretta, qui non corteggio nessuno, poi come tutte le persone normali, tranne te. Poi, ma devo aver paura? Ma no, ma okay. Assolutamente, ma lei è carrozzatissima, no, però insomma in tutti i sensi, è vero? No, paura. Scusi il doppio senso, ogni tanto grazie. Mi capita di dire qualche stupidaggine, però comunque ti perdi una bellissima ragazza che finalmente è venuta a trovarci, che ha combattuto, non so se ti ricordi, ha combattuto come una leonessa con il professor Carlo Taormina l'altra volta qui. Professor Carlo Taormina, che vogliamo ricordare, autore dell'ultima performance qui alla Zanzara, dicendo che lui nel suo studio di avvocati non vuole gli omosessuali. Poi vogliamo un commento a chiosa da parte di Elena Grimaldi sul professor Taormina. Intanto io per esempio nel mio studio faccio una cernita adeguata in modo tale che questo non accada. Cioè, non ho capito, lei se uno è omosessuale non lo assume nel suo studio? Ah, sicuramente no. Sicuramente ma no. Professore, ma questa è ma è discriminazione questa roba, no, qua. No, sarà discriminazione, a me non me ne frega niente. Vabbè, insomma, signora Grimaldi, come vuole giudicare il suo avversario qui alla Zanzara? Io giuro, non pensavo potessero esistere ancora persone di quella mentalità nel 2013. Cioè, fa ridere perché sembra uno scherzo. Non, cioè, ditemi che è uno scherzo, che almeno mi metto l'anima in pace. No. Professor Taormina dice che lui addirittura ha le antenne, e se viene qualcuno da lui, omosessuale, per fare un colloquio di lavoro, lui ha le antenne. Però scommetto che dovesse arrivare un omosessuale che gli dà lavoro, il lavoro lo prende. Sì, diciamo che il professor Taormina può darsi che se ne freghi. Allora, ma possiamo, insomma. Sì, possiamo rispiegare al grande pubblico della Zanzara, rievocare lo scontro etico tra la signora Grimaldi e il signor Taormina? Ma no, in realtà fu uno scontro sull'omosessualità, sulla libertà sessuale, su certi vizi, secondo il professor Taormina, eccetera. Ma insomma, noi eravamo, come dire, tutti al fronte insieme ad Elena Grimaldi. Vorrei chiamare, se a lei chiama, se lei ricevesse una telefonata del Papa, ma ci crederebbe o no? mi dica no, la verità. Non credo. Non ci credere. Dice perché con tutto quello che ha da fare, non credo si metta perché? A telefonare a me. Anche perché forse con me è una partita persa. In che senso, scusi? Non sono proprio un ottimo elemento. No, no. Beh, tutti sono pecorelle smarrite. Tutti sono pecorelle smarrite. Lei, sulla pecorella smarrita non dico niente, che è meglio. Tutti sono pecorelle smarrite. Pecorelle. Tutti quanti hanno bisogno di essere, come dire, recuperati. Pecorella. Recuperati. Anche se, secondo me... Io non so se il mio recupero è possibile, ma però, perché lei dice insomma, di no, perché uno che no. ha fatto il suo mestiere, la pornostar, no, no, non no, è possibile. No, no, no, no, non credo cioè, lei è una sia... peccatrice, lei dice una peccatrice nata, nata. No, io non sono credente, non mettiamola così. E vabbè, quello al Papa vuole non interessare. Quindi qualche peccato qua e là, però penso non è di recuperabile, averlo fatto. Non è recuperabile. Credo di no, credo che proprio la mia mentalità sia al di là di quello che può essere la Chiesa. Vabbè, abbiamo la borsa, torniamo subito perché parliamo. Lo sai che uno dice, no? Questa una signora ha fatto la pornostar, adesso fa ogni tanto degli spettacoli, però fa l'imprenditrice, ha messo su un negozio, eccetera. Fa spettacoli però... di che tipo? No, fa spettacoli di burlesque, però non quelli di Berlusconi, ecco. Però di burlesque vero. Però poi in realtà commenta su Twitter qualsiasi cosa, cioè per esempio sulla vicenda di Priebke, sulla vicenda, ma su tante cose, ma in maniera anche originale. Per esempio su Priebke la pensa, su Priebke la pensa più o meno come te. Abbiamo la borsa, meno torniamo male. Subito. La zanzara. Voglio essere lapidario, lei è una persona simpatica ma è uno scacciafighe. Quando c'è della figa in trasmissione faccia parlare Cruciani, per favore. Se no attaccano, non rispondono più. Va bene, siamo qui, 800 24 00 24. Caro, vabbè Parenzo, che devi fare? Questo è un ascoltatore, ogni tanto la regia, senza che io lo sappia, ogni tanto la regia manda in onda queste cose. Che devo fare io? Cioè... No, stavo parlando con Ella Grimaldi, che ci è venuta a trovare qui, bresciana doc, ex pornostar, che mi raccontava del perché, del vero motivo per cui la caratteristica non è che è bresciana doc, però scusami, no, però scusa, come non è anche una sua caratteristica, perché io sono fissato con i dialetti, ti assicuro che appena parla, ma perché devi dire bresciana doc? Perché non appena non parla è la cosa che la qualifica fino in fondo, va bene, d'accordo, non la qualifica fino in fondo, è un ex pornostar che adesso è uscito da questo mestiere, non dico non è che ha fatto bellissimo. Bene ha fatto, ma no, non lo fa più questo lavoro, però mi stava spiegando anche perché non è una qualifica, uno non è solo quello, è esatto, un, cioè, per esempio, è un sacco di cose. Per esempio adesso mi racconterà perché è uscito dal porno, perché la cosa ha anche una sua, questo è un dispiacere enorme. Comunque. Per chi? Per te, tu non hai mai visto un film in vita tua, un film porno in vita tua? Io adesso non ricordo la storia, le trame dei ma film non ricordi fuori. Niente perché quello tu... penso che non lo ricordi nessuno. Le trame, una cosa tue, però per esempio su Priebke facciamole fare l'editorialista della zanzara. L'editorialista della, su Priebke cosa ne pensa di questa storia, mi dica. Sul corpo di Priebke, dove dovrebbe finire secondo lei? Penso no, non certamente qua in Italia, non è il caso. Ma non... chi ha fatto bene la gente a manifestare lì ad Albano? Assolutamente sì. Ah, hanno fatto bene a sputare, a dare addosso la barra? Allora, a sputare, a dare addosso no, perché comunque io non credo alla violenza. Però? Però manifestare in tranquillità contro, assolutamente. Capito Parenzo, la pensa come te? Non è stata proprio un'ottima persona. No, che non sia stata un'ottima persona, signor Priebke, ecco. Su questo l'abbiamo tenuto in Italia. Su questo gli abbiamo dato i domiciliari, gli abbiamo pagato, diciamo, la scorta. Tra le opere, visto che tra le opere della signora Grimaldi c'è un film che si chiama L'ambulatorio del sesso, oppure altrimenti l'altro Mucchio selvaggio. Ma quello se andiamo a guardare ne sa sicuramente più di me, che io non ricordo. Ma perché lei ha cancellato un po'. Però... Non perché io mi posso vergognare. Perché non si interessava dei perché non mi interessavo dei titoli dei film, capito? Però guarda, ma quanti soldi ha fatto lei col porno? Pochi. Ma come pochi? Quando sono arrivata io già non si guadagnava più. Ma come non si guadagnava più? Si no, guadagnavano quelle prima di me. Ormai era un momento però in cui... Scusi, ci vuole rivelare il vero motivo per cui ha smesso? Ma io aveva paura dell'HIV, dell'AIDS? Anche sì. Io ho smesso perché non ne avevo più voglia e quindi d'accordo, però aveva anche paura dell'AIDS. Sì, era successo che un attore nel periodo in cui giravo io era risultato positivo all'epatite e quindi ovviamente tutto l'hard europeo era stato bloccato per 8 mesi. Sì. E ovviamente si è messa una paura terribile lei. Ha visto quello che è successo in America adesso di recente, una cosa drammatica con quegli attori. Assolutamente non ne vale la pena. Per quanto noi fossimo molto controllati, perché noi avevamo esami tutti i mesi e quindi Però purtroppo, ma come in tutte le cose, può dare un consiglio a quelli che adesso si vogliono avventurare su questo terreno, di non farlo. Ah, con serenità, di non farlo. Di non farlo, si rischia troppo. Si rischia. Ma troppo. Non, ormai non c'è più nessuno che gira. Non si guadagna più. No, quello a parte che uno forse non è un lavoro che lo fai per il guadagno, ma lo fai perché è una cosa che ti piace. Addirittura? Sì, credo, cioè, che lei lo faceva Rocco Siffredi all'epoca, Cicciolina, Moana Pozzi lo potevano fare per il guadagno, sì. Erano altri tempi. Adesso non è un lavoro che ti cambia la vita o che ti fa. Cioè lo fai perché ti piace? Sì, assolutamente. Lei lo sì. faceva pure perché le piaceva? Sì. Sì, addirittura? Sì. Cioè, devi avere il sesso, no, per carità, okay. Perché devi avere il sesso addosso da questo punto di vista. Devi avere un po', no, il sesso dentro. Se no, se non ce l'hai, non lo puoi fare. È una cosa che a me piaceva. Adesso descriverla non è un, no, vabbè, non è semplicissimo. Sì. Io sono una persona molto tranquilla, non sono una persona. Però il lavoro che facevo mi piaceva, mi dava il modo di girare il mondo. Ho conosciuto un sacco di persone, ottime persone. Capito, Parenzo? Ed è qualcosa di diverso. Insomma. No, ma, cioè, ma di diverso non c'è dubbio. Dei suoi film, oddio, questi titoli, dai, sì, lo sapevo che andavo sui titoli. Roma Import Escort. Secondo me è stupendo, però. Perché ogni tanto ci sono dei titoli geniali. Senta, secondo lei, che vogliamo dire, per esempio, del presidente della Camera, no? Che dice che non bisogna fare le pubblicità con le donne nude, ha sentito ogni tanto, signora Boldrini. Certo, chiesto a lei non è proprio. No, non è proprio. No. Esatto. Io sono per lei la libertà in tutti i sensi. Se una persona. Cioè la donna non è sminuita se fa una pubblicità nuda. Ma anche perché c'è stata tanta polemica, ad esempio, sulle veline. Io credo che queste ragazze nessuno le ha mai obbligate a fare niente. Anzi, hanno fatto dei provini, hanno fatto dei casting, hanno passato delle selezioni. Insomma, erano in tante fino ad arrivare alle due, che poi in quel momento erano in televisione. Non mi sembra che nessuno abbia usato il loro corpo, ma loro hanno scelto appunto di tante donne, tutte le donne che sono in televisione mostrano il loro corpo in un modo o in un altro, quindi non capisco qual è la tutte polemica. Cercano di essere più belle. Senta, qual è il giornale che lei legge la mattina? Il primo io leggo solo su internet, sull'iPad, leggo Libero, leggo insomma le notizie della giornata, il Fatto Quotidiano. Ma io, guarda, mi arrivano tutte le notifiche su Twitter, io ho diviso e quindi mi arrivano tutte le notifiche. Capito, della Valenzio? Giornata. La carta è morta, la carta io muore. Faccio prima lavorando molto. Beh, certo. Sì. Ma adesso è fidanzata con qualcuno? Sono sposata. È sposata, è amico mio. Ah, addirittura sposata, ma sì. Fa anche figli, ha figli, cose, no? No, per ora non ne ho. È giovane, bene, la signora. Bene. Ma qualora dovesse, Dio non voglia, come dire, imbattersi qualche problema legale, pensa che prenderà l'avvocato Taormina come suo patrocinio? No, non credo. Ne ho uno migliore, sicuramente di vedute un po' più ampie. Ma come lo fai? Ammazza la zanzara, schiaffeggiati la chiappa e la chiappa nera. Allora, attenzione, perché siamo in collegamento ti viene a pungere, batti le mani, battire forte. Aspetta, c'è una difficoltà di collegamento perché stiamo cercando di raggiungere a casa il ministro della giustizia Cancellieri, che come sapete è grandissimo tifoso della Roma e insomma ci deve descrivere, caro Parenzo, cosa accade proprio nei minuti iniziali di Roma-Napoli, di questo incontro molto importante di questa sera. Speriamo se riusciamo a collegarci. Vediamo, non è facile per il ministro della giustizia, capito, David? No, ma quella parla sempre di mangiare, è una cosa. No, ma adesso vediamo. Sempre metafore. Pronto? Pronto. Sì, buonasera, ministro. Buonasera Luciani, buonasera. Ma è davanti alla televisione, credo, no, ministro? Guardi, sto preparando una cena leggera da gustare con alcuni amici e poi, naturalmente, Roma. No, però scusi, ministro, come si mette a cantare? Roma è questa città, mamma quanto è bello De Rossi, mi piace tanto. Veramente. Ma come è bello De Rossi? Ma ministro, la giustizia. Ma lei non può sbragare così, ministro. È una cosa meravigliosa, guardi, poi da Roma si ama e basta. No, ma ho capito, la Roma si ama e basta, però secondo lei... La situazione nelle carceri deve parlare. Ma lei, scusi, si è dimenticato della situazione, per un'ora e mezza si dimentica delle carceri, dell'amnistia, di Berlusconi, di tutte queste cose. Una cosa è sacra, la partita della Roma non si tocca, ecco, su questo siamo assolutamente sulla stessa linea. su quale linea? Con chi è sulla stessa linea? Da sola lei? Con, naturalmente con tutti quelli che amano la Roma. Vabbè, certo, certo. Scusi, ma allora lei sarà contenta, quest'anno ha vinto il derby la Roma, no, ministro? Sì, certamente, devo dire che è una soddisfazione particolare. Particolare, eh? Particolare. Ma che ha preparato per cena stasera lì? Il solito chilo di carne oppure le uova? Guardi, io partirei, se lei mi permette, volevo fare una precisazione sull'arbitro. Sì, a chi è? Io, Orsato, sì, Orsato. Ecco, perché? Come in politica, così sì. Anche nello sport mi piace fare scelte responsabili e plausibili. Sì, lei ma pensi, mica l'ha deciso lei. Pensi, Cruciani, lei pensi sì. Che un giorno Orsato venne spedito dal designatore abitato al supermercato. Al supermercato. Sì. E lui pensa... Se te compro un chilo di carne, se fa comodo, ma bello mio, certo che fa comodo. Lui mi dice che c'ha, che non c'hai soldi per la carne. Beh, allora che ha fatto Orsato? E che te lo dico a fare? Se ha preso le uova, in faccia se le ha prese. Ma che c'è, ma se lei conosce l'arbitro di questa sera, ministro? E per forza quel mascalzone aveva dato un rigore inesistente quella volta alla Lazio. E vabbè, ma come la vedrà la partita? Scusi, ministro, poi la lasciamo. Guardi. La vedo con gli amici qua a casa, sto preparando le squadre che sono in campo, ho preparato dei vermicelli, cacio e pepe, una cosa leggera. Ma come leggera? Vermicelli, cacio e pepe è una cosa di una pesantezza enorme. Poi ho preparato il secondo, adesso infatti stiamo a passare al secondo, sì. Trippa alla romana con menta e pecorino romano. E se ci mettessi pure un po' di paprika? Ma la paprika, che c'entra la paprika con la trippa alla romana? È una cosa di una pesantezza inaudita. Vabbè, evidentemente, guardi Cruciani, ancora questa me la deve passare. Cosa? Evidentemente le mie affermazioni sono state ancora una volta parzialmente tra. Ma quali affermazioni? E questo dipende sempre da una certa stampa grillina. Grillina? Ma che c'entra la stampa grillina? La vabbè, stampa grillina. Ma guardi, la partita è iniziata, mi sembra, no? Come sta andando? 0-0. No, sta per iniziare in questo momento. Stanno inquadrando Garcia, quindi adesso fra poco la saluto. Guardi, a poche cose io tengo. Ma l'inno della Roma lo sa o no? Io so tutto. E com'è? Come fa? Come fa? Aspetti un attimo, voglio finire, non interrompa il ministro, per cortesia. Ma come fa? Poche cose io tengo, ma i vermicelli, cacio e pepe per me sono sacri. Vabbè, lo sappiamo, come io fa? Io quanto è bello De Rossi l'hanno inquadrato, quanto mi piace. Quello lo si dice, se è male. Ma il capitano però c'è un fisico. Allora vuole l'inno da Roma. Sì, sì. Roma, Roma, Roma. Vabbè, partita la testa, ministro, c'è niente da fare. Sta città, quanto è bello. Ha perso. Grazie, ministro, buona partita. Buona partita. Forza Roma, forza Lupi, sono finiti da TV. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Vabbè. Roberto da Palermo, buonasera. Era il ministro Cancellieri, buonasera. Grande performance prima della partita. Non l'abbiamo mai sentita così, ministro Cancellieri. Roma. No, è una cosa pazzesca. Ma ti pare, ma che con tutti i problemi, le carci, le cose. Perché non si può vedere la partita, un'ora e mezza davanti alla cosa a vedere la partita, qual è il problema? Ma no, ma quanto è bello De Rossi, mi sembra proprio inadeguata adesso. Roma, Roberto da Palermo, su, Roberto da Palermo. Posso Roberto, dare? vada. Sì, era soltanto sull'intervento che ha fatto Borghezio qualche momento fa. Sì, che bisogna commentare, diciamo, non c'è niente da commentare sull'intervento di Borghezio. No, siete straordinari, siete bravissimi. Perché? Che ha fatto? Perché riuscite a farlo diventare quasi simpatico, perché diventa patetico, perché nelle vostre mani gli fate dire una quantità di stronzate. Ma anzi, oggi stasera era moderatissimo il signor Borghezio rispetto ad altre volte. Sì, poi ma non era nei toni, né nelle frasi, ma nei contenuti, dell'imbecillità assoluta. Ma perché? Qual era l'imbecillità, per esempio? Ma allora, sulla resistenza questo signore, secondo me, non è alla più pallida idea. Piazzale Loreto lo ha collocato nel 53, facendo un bellissimo errore di date. Ma assolutamente non è così. 60 anni fa... Vabbè, Roberto, ha detto così 60 anni fa, su. Va bene, grazie. Sì, con noi ancora Elena Grimaldi. Io vorrei capire una cosa, ma secondo lei ha seguito questa polemica della Pascale, lesbica, eccetera? No, non credo. No, la signora Bonef, non si interessa non di queste interessa. Cose. Ho sentito velocemente, ma non non mi interessa. Ma perché ha votato signora Grimaldi? Perché ha votato signora Grimaldi, si può dire? No, non per il PD, dico. Come no? Per il PD ha votato, sono sicuro. Diciamo che non ho votato Berlusconi. Ma non ha votato Berlusconi, no. Perché lei non lo sopporta? No, non è che non lo sopporto, non sono di quella... No. E perché ha votato? I radicali no? Perché ha votato? No, ho cercato PD. Di votare il meno peggio. Amica, adesso si può dire... Come il suo? No, ho cercato di votare il meno peggio. Cioè, secondo lei il meno peggio qual è? Ma non è un mistero il suo voto, c'è la Grimaldi. Lei, adesso voglio dire... Non è che sposta voi. Non è che, adesso, non esageriamo, non abbia paura di compromettersi. No, pensavo Grillo fosse... Ah, votato per Grillo, sì. Vabbè, non è un problema, l'altro hanno votato tutti, pure io ho votato per Grillo, per cui chiunque ha votato per Grillo, dall'ex pornostar, adesso imprenditrici di se stesse, a giornalisti, a imprenditori, a morti di fame, tutti. Max da Milano, buonasera, tutti hanno votato, una cosa di una trasversalità così non l'ho mai vista, come la DC. Max, buonasera DC, a tutti. Una DC incazzata, Max, dica. Buonasera a tutti, io ho una domanda da farti, sì. E poi un commento serio. Sì. Domanda da farti, ma tu che conosci bene, ma Crociani sì. È stronzo o lo fa? Ma chi la, a Parenzo la lo stai chiedendo? No, lo sto chiedendo a te. Ah, sì, io sono stronzo? Ma sono, no, no, dico così. Dico, Crociani, o lo fa? Guardi, io sono in radio esattamente come sono fuori, cioè un po' così, un po' burbero, un po' spigoloso, un po' così, come dire, un cuneo, non una pietra tonda, non una pietra, un cuneo. Bene, grazie per la risposta e poi ve lo dico. Ma che, gli frega a lei poi? Ma che, cioè, ma è curiosità. Ma che ci dobbiamo fidanzare? No, cioè, no, ma sei simpatico, però dico, ma è stronzo proprio così? Ma signor Grimaldi, lei mai stata con una donna? No. Cioè, allora, per lavoro sì, ma nella vita no. Per lavoro sì. Per lavoro non le faceva nessun effetto, no? No, io non sono lesbica. No, io sono ancora all'antica. Ma non le faceva nessun effetto per lavoro? No, lo faceva per lavoro. Vabbè, sì, per me era lavoro. Era lavoro e basta. Sì. Beh, io ho l'impressione che lei si estraniava completamente. Sì, quando certo, faceva... è l'unico modo per sopravvivere. Poi è per cosa pensare pazzesca. Ad avere una vita una normale. Cosa pazzesca. Stefano dalla provincia di Cuneo. Come fa a estraniarsi completamente? Beh, Stefano, provincia di Cuneo, su. Sì, pronto, buonasera. Sì. Buonasera, io volevo parlare. Cosa brevemente. Ne pensa per esempio del signor Monti? Mi dia una cosa. Ma sul cosa signor Monti? Lei conosce il signor Monti, cioè Grimaldi, non si distragga. Sì. Con... Sì, che sì. Ne pensa di Monti, bene o male? Stefano, dica Stefano. Sì, io volevo parlare di nuovo brevemente della trasmissione di Santoro. Ho sentito la signora Bulgara, l'attrice sì. Bulgara. Signora Bonev, Bonev. Sì. Che ha dichiarato di aver avuto una relazione con l'attuale fidanzata. Sì, che sono state insieme. Ecco, a mio indimostrabile, giudizio, ovviamente, indimostrabile. Esatto. A mio giudizio, a mio personale, con umiltà, giudizio, voglio dire, se questa persona ha avuto una relazione con la Pascale, dovrebbe perlomeno avere un minimo, aver avuto un minimo di affetto per questa. Perché uno può avere anche una relazione senza provare affetto. Sì, però almeno portare rispetto e quindi rispettare. Ma che il fatto rispetto che... ha? Ma quella gli ha scritto un SMS dicendo sì. Mi avete abbandonata, io non faccio più nulla, voi invece siete sempre sulle copertine dei giornali. Poi si è vendicata dicendo che è lesbica, è ricatta Berlusconi, ha parlato di Berlusconi come quello che con cui è andata a letto per ottenere una fiction. Secondo lei ha rispetto questa qua? Non ha nessun rispetto, ma se ne fotte, secondo, no? Se ne fotte. Me. Vabbè, grazie, grazie alla Grimaldi di essere stata con noi. Parenzo, grazie a voi. Vattene al diavolo con sto torpedone. Ci sentiamo lunedì 18:30. Viviamo e lottiamo insieme a voi su tutti i fronti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione. Lo dica, a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Tazza di merda! Radio 24. La passione si sente.